Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. Secondo un monitoraggio di Legambiente reso noto ieri, fatto su 1.400 treni regionali, 3 convogli su 10 arrivano in ritardo. Insomma, primato negativo a Palermo col 48% dei convogli in ritardo, quelli per i pendolari. Poi Napoli, Milano, Roma, insomma, secondo Legambiente, pendolari, e secondo questa indagine la conferma dei pendolari in qualche modo bistrattati, spesso in ritardo, costretti a viaggiare su treni sporchi. Sapete che tra qualche giorno, tra 3 settimane, il 14 dicembre, è una data importante perché partirà l'alta velocità che collegherà Milano e Roma in 4 ore. Questo però, secondo per esempio il Sole 24 Ore, che ne scriveva bene lunedì, se darà vantaggi sulla Milano-Roma e la Roma-Napoli, avrà come effetto quello di rallentare altre tratte. Capitolo più dolente proprio quello delle tratte dei pendolari. Insomma, chi deve pagare i servizi dei pendolari? Sono le regioni che dovrebbero mettere più soldi? È lo Stato? Sono le ferrovie che dovrebbero mettere più soldi? Vita da pendolare, abbiamo titolato così questa puntata. Sapete che tra l'altro il nostro GR24, la nostra Paola Nania, sta proprio facendo un viaggio tra i pendolari italiani ogni mattina, che ascoltiamo nel GR delle 8, e sapete anche che molte regioni stanno protestando in maniera vivace per il nuovo orario, l'orario 2008-2009 dei treni, proprio perché l'arrivo dell'alta velocità sembrerebbe, vedremo oggi se è così, penalizzare quello dei pendolari. C'è addirittura una regione che è andata allo scontro frontale con Trenitalia, si tratta della regione Liguria, e qui saluto il presidente Claudio Burlando. Buongiorno presidente. Buongiorno. Benvenuto. Allora, ci spiegherà ovviamente che tipo di scontro ci sarà. Tra l'altro tra poco ci raggiungerà anche l'amministratore delegato di Trenitalia, l'ingegnere Vincenzo Soprano. Alle 9:11 minuti dunque, vita da pendolari, soprattutto pendolari sui treni. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Se volete gli sms al 349 238 6666, cercheremo di capire anche se davvero l'arrivo dell'alta velocità il 14 dicembre, come scriveva il Sole 24 Ore lunedì scorso, si ripercuoterà negativamente anche sulle tratte invece regionali, quelle dei pendolari appunto. Saluto insieme al presidente Burlando l'ingegnere Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia. Buongiorno ingegnere, benvenuto. Buongiorno. Allora, partiamo da Claudio Burlando. Presidente, io ho detto che la Liguria è andata a uno scontro frontale in atto in questi giorni proprio con Trenitalia. Tutto credo nasca nel 2007, no? Quando la regione multò per una serie di disservizi ai pendolari liguri Trenitalia. Multò per quanto? Ma noi non abbiamo aperto nessuna guerra, nessuno scontro, semplicemente abbiamo convenuto insieme a Trenitalia che il disservizio, cioè il servizio pagato dalla regione ma non usufruito dai pendolari per cancellazioni, ritardi e così via, fosse valutato in circa 500 milioni di euro, ma su questo c'è piena intesa. 500 mila, presidente, mi scusi. No, perché ha detto 500 milioni, sarebbe stato un po' troppo. 500 mila euro. 511 per essere precisi. Su questa valutazione Trenitalia e noi siamo completamente d'accordo. Non è la prima volta che succede, abbiamo usato queste multe con diverse modalità, per esempio pensiamo anche di recuperare piccole stazioni, in passato abbiamo anche recuperato carrozze non più adeguate, e come per il passato abbiamo anche pensato di restituire ai pendolari in termini di un mese di circolazione gratuita e di servizi, nel senso che questi pendolari hanno pagato anche per servizi che non sono avvenuti, certo, nel 2007. Quindi si è deciso di convertire anche una parte di questa multa nel... Anziché restituire, perché poi è molto difficile non andare a individuare, sì, certo, i singoli pendolari coinvolti con la cancellazione di un treno, di più treni, di fare una cosa esattamente come lo scorso anno. Ecco. Un mese quello gratuito. Quello che è cambiato rispetto allo scorso anno è che Trenitalia non ha distribuito i moduli, come ha fatto sempre gli anni precedenti, per usufruire di questo sconto. Allora, noi abbiamo attribuito questo diritto ai pendolari con un atto deliberativo della Giunta assunto la settimana scorsa, che dà titolo ai pendolari di usufruire di questo sconto. Sostanzialmente questi pendolari, i pendolari liguri, a dicembre, per una delibera della sua giunta regionale, voi avete deciso, visto che non arrivano i moduli di Trenitalia, visto che non c'è questa possibilità di fare allora l'abbonamento gratuito per un mese, noi decidiamo come regione che a dicembre i pendolari liguri viaggeranno gratis. E guai, noi abbiamo pagato a Trenitalia un servizio di cui i pendolari non hanno usufruito per responsabilità che non sono né nostre né dei pendolari. Visto che l'Italia quest'anno, poi sentiremo perché, non ha adempiuto alle procedure formali, abbiamo dato noi titolo. Poi naturalmente io mi auguro che la trasmissione di oggi consenta anche di dare tranquillità a queste persone, che non devono avere paura di avere la multa o di dover ricorrere al sindacato. Questo lo vediamo. Mi auguro anche che le questioni che riguardano noi Trenitalia possano essere direttamente affrontate senza mettere di mezzo scudi umani dei pendolari. Lei, Presidente, comunque dice, adesso sentiremo ovviamente l'ingegnere Soprano, spera e si augura che da dicembre i pendolari liguri potranno viaggiare gratis e senza multa, insomma, perché... Io spero che la cosa venga definita adesso qui da voi in questa trasmissione. Vabbè, vediamo se abbiamo questo potere. Adesso forse ce ne attribuisce un po' troppo. Comunque, secondo occasione di confronto, la discussione sul 2007 non c'è, e dico, trasferiamo la discussione sul 2008, sul 2009 in alta sede. Diamo ai pendolari ciò di cui hanno diritto. Vediamo, ingegnere Soprano, innanzitutto amministratore delegato di Trenitalia, appunto, risponda burlando sul fatto che dice il presidente Trenitalia non ha adempiuto, non sono arrivati i moduli, e la prima domanda era questa, il perché secondo Burlando non ha adempiuto Trenitalia, e poi ci spieghi cosa succederà a dicembre, se effettivamente i pendolari liguri viaggeranno gratis o verranno multati, qual è la linea di Trenitalia? La linea del Presidente, perché ha detto cose tutte estremamente corrette, c'è un problema che purtroppo incombe su questo tema. Il problema è che purtroppo i contratti sono tutti scaduti, quindi le cifre che ha detto il Presidente sono assolutamente corrette, assolutamente condivise, tutto il principio è ineccepibile. C'è solo un problema proprio per ragioni anche di carattere direi quasi macro, stiamo parlando addirittura problematiche relative alla possibilità di avere assegnate risorse dallo Stato, noi siamo al momento senza contratto. Quindi il problema di Trenitalia in questo momento qual era? Come sta fornendo un servizio senza avere un prezzo definito a fronte di contratti, ripeto, scaduti a fine dello scorso anno, e quindi sta erogando un servizio. È chiaro che a fronte di questo importo correttissimo di poco più di 500.000 euro esiste per noi al momento un gap di 9 milioni di euro su cui non abbiamo certezza sul servizio che stiamo erogando. La nostra posizione è una posizione che non voleva assolutamente essere di scontro, e io prendo l'impegno nelle prossime ore a trovare un'uscita concordata con la Regione su questo tema. Non vogliamo assolutamente andare uno scontro, sarebbe una posizione folle, né tantomeno far pagare, come diceva il Presidente, i pendolari che non sono responsabili di questo problema. Non c'è assolutamente questa volontà, né di fare voglia di pressione indebita in questo modo. Il tema è che purtroppo stiamo erogando un servizio in un'azienda con le mille difficoltà, non voglio che sta affrontando in Italia, di carattere di sostenibilità economica, di bilancio, eccetera, di erogare un servizio senza contratto. Quindi, lei dice, tra l'altro, le regioni dovrebbero dare più soldi per tradurre, per esempio, per questi servizi, perché sennò voi siete in perdita. Il problema in pillole proprio, pensate che nel resto d'Europa che conta, Francia, Germania, eccetera, l'incasso medio è sopra i 20 centesimi di euro per ogni chilometro che fa un passeggero. In Italia siamo fermi da anni a cifre assolutamente non accettabili, noi siamo intorno agli 11 centesimi e mezzo. Questo è quello che danno le regioni, lei dice, cioè le regioni in Italia danno 11 centesimi e mezzo? È tutto il complesso, tutto il complesso. Tutta la parte che arriva tramite lo Stato che dà le regioni, ma io come semplice impresa vedo il contratto che firmo, che è fatto sia di corrispettivi sia della parte che il pendolare paga, quindi è la somma di tutto, poi ci può essere una diversa. Però per anni nel nostro sistema sono stati riversati risorse assolutamente non adeguate. Allora, la qualità scarsa, mi consenta, che oggi purtroppo i pendolari lamentano, è figlia di 10 anni di mancate risorse. Cioè, quindi se non arrivano soldi dalle regioni, bisogna Trenitalia, che opera come un'azienda con dei bilanci, è costretta a tagliare i servizi. Questo possiamo, voglio dire, tradurla così molto sinteticamente, Soprano. Lavorando per risolvere questo problema e arrivare anche, diciamo, a livello governativo, ministeriale, sono tutti impegnati su questo tema e si sta cercando una soluzione. Per noi potrebbe essere, diciamo, anche per così la cosa da poter intavolare con la regione, a fronte, diciamo, di un riconoscimento, mi sembra passato il termine, da parte della regione, dice ok, di questo stato di fatto difficile in cui noi ci troviamo, è un fatto direi quasi commerciale, fra contrattuale fra regione e Trenitalia, la soluzione la troviamo rapidamente. Poi sta di fatto che quei soldi comunque del 2007 sono lì, non li tocca nessuno, sì. E allora, detto il Presidente. Visto che, prima di tornare al Presidente Burlando sulla questione economica, però mi dica, lei ha detto ci impegneremo nelle prossime ore a risolvere, voglio dire, pare che c'è stato un incontro tra l'assessore dei trasporti Ligure Vesco e il direttore della divisione passeggeri Laguzzi, e pare, insomma, i pendolari liguri sono allarmatissimi, cioè pare che la linea sia di durezza di Trenitalia, cioè di tenere le multe. Che via d'uscita vede? Perché dicembre è qua tra pochi giorni, insomma. No, ma qui questo lo devo risolvere in ore o minuti. No, la via d'uscita ritengo questa. Io ho predisposto una lettera che ho inviato alla regione, dicendo che proprio noi abbiamo ovviamente come impresa l'esigenza di difendere il nostro bilancio, che già, ripeto, è molto critico. Quindi, erogando un servizio senza nessun appiglio per quest'anno, siamo in grave difficoltà a riconoscere questa cifra. Qualora la regione dicesse prendo atto che l'offerta che ci avete fatto, la continuità eccetera, ci dà questo appiglio sostanziale, anche direi a tutela come gestori e buon padre di famiglia che devono gestire un'azienda in difficoltà, io credo che la soluzione si trova immediatamente. Presidente Burlando, la rassicura, insomma, la posizione di... Intanto volevo dire che all'incontro di ieri sera ho partecipato per una parte anch'io, un incontro assolutamente tranquillo, perché adesso qui si sono leggende metropolitane, nel senso che ci siamo spiegati i rispettivi punti di vista e abbiamo cercato di costruire una soluzione positiva per il futuro, quindi è stato un incontro positivo, c'era anche il direttore compartimentale delle ferrovie, c'erano i nostri funzionari. Mi pare di capire tanto che si avvia a una conclusione positiva la vicenda per il 2007, che ricordo è anno non contestato, cioè le cose che dice l'ingegner Soprano, che io dal suo punto di vista capisco, riguardano il 2008 e il 2009. Mentre le multe di cui parliamo riguardano il 2007, anno in cui non c'è contestazione sul corrispettivo del servizio. E infatti questo l'ha detto, quei soldi spettano, voglio dire, sono lì. Mi pare anche di aver capito, se non ho capito male, che nelle prossime ore questa cosa si risolverà, aggiungo io, positivamente. Insomma, non può che risolversi positivamente, perché l'altro della regione è pienamente legittimo. Volevo sottolineare un'altra cosa che ha detto Soprano. Sono 10 anni che lo Stato non aumenta i fondi per il trasporto regionale. 10 anni fa il ministro dei trasporti ero io, insomma, fu l'ultimo anno in cui si adeguarono i fondi. È chiaro che 10 anni senza adeguamento dei fondi spiegano tutto, no? Cioè, se per 10 anni uno Stato, perché questo è uno Stato ancora fortemente centralista, se per 10 anni consecutivi con un'inflazione accumulata che sono del 30-40%, con prezzi molto aumentati in alcune materie prime, non si aumentano i fondi, si va in difficoltà. Ora però quello che non si capisce è perché in una triangolazione tra azienda, Stato e Regione, bisogna metterci di mezzo i pendolari. Tra l'altro i liguri sono i più affezionati al treno, anche per la orografia complessa di questa regione, c'è un aumento dell'uso del treno spaventoso in Liguria. Allora io mi auguro che nelle prossime ore, sulla base di questa lettera che adesso vedremo, si possa dare tranquillità a questi nostri concittadini. Dopodiché riapriremo la discussione, tenendo presente però che anche noi abbiamo una serie di lamentele. La Regione Liguria ha contribuito, si dice sempre, le regioni devono contribuire. La Regione Liguria ha contribuito all'acquisto di 4 treni nel 2005, con l'accordo che ci venissero consegnati alla fine 2006. Sono 2 anni di ritardo, questi treni non ci sono. Li aspettate ancora. È un po' buffo chiedere a noi di mettere soldi quando li mettiamo non ci danno i treni. Io poi ci sono anche delle di etologie su questo mancato arrivo dei treni, cioè che semplicemente l'azienda, in anni in cui non aveva nessuna responsabilità, ingegner Soprano, sia chiaro, abbia firmato la convenzione con noi e poi semplicemente abbia dimenticato di fare l'ordine per i treni. Sì, io voglio dire, l'aspetto interessante è questo. Lei burlando dice sono 10 anni che lo Stato non adegua le tariffe, insomma i contributi alle regioni, le regioni devono contribuire per pagare il servizio, Trenitalia deve garantire il servizio e dice se un servizio è in perdita perché le regioni non coprono abbastanza, io sono un'azienda e quindi servizio in perdita, sono in difficoltà a erogarlo. In questo, ingegner Soprano, anche per allargare il discorso, arrivare all'alta velocità, i pendolari sono quelli che stanno in mezzo, voglio dire, sono quelli che poi purtroppo non hanno responsabilità di tutto questo, ma è come arrivano tanti messaggi, come lei può capire, insomma, ci rimettono. No, non è assolutamente questa la volontà. Questo è un tema anche su questo su cui si sta lavorando, direi, duramente. Abbiamo alcuni incontri con alcune regioni, sono alcuni ancora punti critici rimasti un attimo aperti. È chiaro che quando in un sistema dove girano quasi 10.000 treni al giorno, inserire comunque un'offerta importante, diciamo poi anche lato nostro, noi possiamo avere una visione tecnica, per cui io darei, se mi consentite, quasi una lettura positiva al di là dei toni a volte accesi. Però per noi è il colloquio in questi tavoli che abbiamo avuto con le regioni, con i pendolari, anche un modo per capire bene le esigenze che ci sono dall'altra parte. Quindi, per carità, dal grado di reazione, che forse non è qualcosa di un po' empirico, poi è ovvio che quando si inseriscono 50 treni, a parte ogni anno comunque ci sono spostamenti, magari proprio per richieste delle regioni o piuttosto, quindi in un discorso estremamente complesso, quello, ripeto, di far girare 10.000 treni tutti nella stessa giornata, piccoli spostamenti, il minuto, la cosa, eccetera eccetera, ci sono. Su questo c'è la nostra totale e assoluta volontà e impegno andare a risolvere tutti i problemi. Non è assolutamente, ripeto, non c'è nessuna strategia, volontà di andare a penalizzare il pendolare, ma trovare tutte le compatibilità possibili. Da questo punto di vista però, ingegnere, allora veniamo a quello che scriveva il Sole 24 Ore lunedì, e cioè si è sempre detto con l'arrivo dell'alta velocità ci sarebbero stati benefici liberando le linee vecchie dai treni più veloci. Il Sole 24 Ore ha esaminato un po' quello che si sa per ora dell'orario 2008-2009 su tante tratte di pendolari, a vedere che, non so, la Piacenza-Milano per esempio, con l'orario che verrà allungato, Reggio Emilia-Bologna che verrà allungato da 50 a 63 minuti, cioè le tratte più dolenti sarebbero quelle dei pendolari, proprio anche legate all'alta velocità. È vero? Trenitalia può rassicurare su questo? Cioè i dati dell'orario dicono questo? Guardi, l'orario, questa è un'altra nostra grande difficoltà, proprio per le discussioni che stiamo facendo in questi giorni non l'abbiamo ancora chiuso, quindi abbiamo presentato dei progetti, delle proposte e abbiamo ancora incontri in corso, ce ne sono oggi stesso, ce ne sarà un altro molto importante domani che riguarderà proprio la Lombardia, quindi su questi... Mi consenta solo di fare un piccolo così, nota metodologica però su alcune cifre che a volte girano, spesso si vanno a confrontare intercity di 20 o 30 anni fa, che allora era il treno di punta, con gli intercity oggi che hanno un ruolo completamente diverso. È chiaro che i tempi di percorrenza sono diversi, devo confrontare il treno di punta di allora col treno di punta di oggi. Oggi per noi l'intercity è quello che dà la base della mobilità, confermate frequenti eccetera. Tanto tempo fa era il treno, la V di oggi, quindi i confronti devono essere omogenei. Sul tema che ci possano essere, questo però dobbiamo essere coscienti, delle variazioni d'orario, tre, qualcuno in più, qualcuno in meno, 3-4 minuti, in un orario così complesso purtroppo non siamo in grado di assicurare a tutti, per un tema molto semplice, sarebbe così facile se noi avessimo soltanto la linea nuova e avessimo capacità infinita sui nodi. Le stazioni sono un punto, diciamo, di grande difficoltà, soprattutto per un problema. Cioè l'entrata e l'uscita dalle stazioni sono i nodi, no? Purtroppo i binari sono esattamente quelli. E il problema grave quando si va a progettare un orario è che abbiamo, e questo dobbiamo ammetterlo con grande, direi, trasparenza, nelle ore di punta ci sono troppi pochi treni. Troppi pochi treni significa che il treno, quando sta a 20-30 km da una grande area metropolitana, è già pieno come un uovo, la gente è scatolata, come questo è una cosa che ci fa male ogni giorno parlarne, come sardine, ma non c'è possibilità di dare ulteriore offerta proprio per il tema che dicevamo prima, cioè difficoltà in un momento molto complicato, sappiamo sì. tutti la crisi che c'è, a reperire risorse per il trasporto e per aumentare la capacità di trasporto, e quindi è quello che in gergo tecnico si chiama l'incarrozzamento. Il treno si ferma, da fare una prima di 3 minuti, la fa di 7, 8, 9 minuti. Sì, e lì si accumula il ritardo. Mi lasci dare il primo ascoltatore, poi c'è un attimo la pubblicità. 800 24 00 24 per intervenire. Michele da Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo presentare la mia situazione. Io lavoro nell'area del Milanese e però mi reco per lavoro frequentemente in Svizzera, a Zurigo in particolare. E devo dire che adesso, al di là di tutte le magagne di cui si è parlato, il problema penso che fondamentale sia la qualità del servizio in totale. Cioè, io lavorando a Zurigo, quando mi devo recare a Zurigo preferisco andare in macchina al confine, perché so che da lì ho la certezza della puntualità, per esempio, oppure la certezza di una certa frequenza. Se parto da Lecco, che comunque è a 30 km dal confine, io sono quasi sicuro di perdere il treno per la coincidenza dall'altra parte. Quindi la questione del servizio, grazie Michele. C'è da dire, insomma, un dato che prima Soprano ci citava, effettivamente da tenere in considerazione, cioè se c'è un investimento generale di circa 11 centesimi e mezzo per passeggero al chilometro in Italia, io so che per esempio in Svizzera è 27 centesimi per passeggero al chilometro. Questo dato l'abbiamo letto ieri su qualche giornale, quindi questo maggiore investimento è un servizio migliore, però effettivamente le criticità ci sono. Ci ha raggiunto anche il professor Marco Ponti, che insegna economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Buongiorno professore. A voi. Allora, sentiamo un ascoltatore, Roberto da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, sfrutto la interessante trasmissione, soprattutto le persone importanti che ha lei in linea. Per sottolineare una cosa, noi pendolari, di cui io faccio parte da lunga data e fatto anche in diverse regioni italiane, sono veramente rattristati anche dalle discussioni che ci sono, che state facendo, perché non è la soluzione amministrativa che noi ricerchiamo, di un accordo contrattuale e penali a conseguenza per mancati servizi dati. Noi abbiamo bisogno di soluzioni reali. E devo dire che l'esperienza che le regioni stanno portando avanti da tanti anni attraverso le ferrovie sta dando dei risultati veramente molto non buoni, veramente cattivi. E mi domando, è possibile che le regioni non abbiano la forza e la capacità di pensare a qualcosa di nuovo? Le ferrovie sono una grande azienda, ma è un'azienda che è impostata per servizi di tipo nazionale. Sì. Non ha un'organizzazione dedicata ai pendolari e non potrà mai avere una missione orientata ai pendolari. Questo, su questo le risponderà Soprano, però prima professor Ponti, i pendolari dei treni sono molti, come immagina, insomma, l'ultimo ascoltatore di Livorno, ma anche prima, che non era collegato, poi i messaggi si lamentano dei servizi, sono sempre e solo vittime che giustamente si lamentano per i disservizi? Ma i servizi ci sono, non ci sono dubbi, però bisogna non dimenticare che due cose. Primo, che i viaggiatori pendolari ferroviari sono una piccola minoranza dei pendolari totali italiani, che sono quasi tutti i lavoratori. Ora, la gran parte di questi pendolari viaggia in macchina, e non per scelta, perché non ha alternative. Viaggia in macchina, paga cifre folli per le tasse sulla benzina, viaggia in coda, e per di più con tassi di incidentalità molto alti. Ora, questa preoccupazione sociale per una piccola quota dei pendolari, che per di più paga tariffe assolutamente irrisorie, sul piano del problema complessivo della mobilità lascia molto molto perplessi. Cioè lei dice pagano poco, dice, sono una minoranza rispetto a chi prende la macchina, che non solo non è incentivato con nulla, ma anzi paga le tasse con le quali si paga. Si coda e si ammazza. Insomma, si ammazza, si spera. Beh, si spera. Insomma, ha un tasso di incidentalità, sì, certo, molto, certo, alto. Certo. E quindi, insomma, questo cosa vuol dire? Che bisognerebbe, per esempio, far pagare di più i biglietti, le tariffe ai pendolari? Guardi che, come sa, l'ascoltano molti pendolari, però. Non lo so, però il criterio di qualcosa di simile all'Europa o agli Stati Uniti forse non è del tutto sbagliato. L'altro aspetto è che il settore è monopolistico, che lascia sempre delle perplessità sui costi complessivi. Se una struttura è monopolistica, se quei costi sono efficienti, i costi di produzione sono efficienti oppure no, bisogna farselo dire dal monopolista, il quale dirà ovviamente che sono efficienti. Mettere un po' di concorrenza nel sistema gradatamente probabilmente ridurrebbe questi costi. Mm. E io non dimentico la domanda dell'ascoltatore che diceva insomma le ferrovie dello Stato hanno un carattere nazionale, c'è poco servizio per invece l'aspetto regionale dei pendolari. Tra poco vado da Soprano, prima però voglio tornare un attimo al presidente Burlando. Presidente, e perché non aumentate le tariffe? Perché le regioni non aumentano le tariffe come le regioni, guardi, la regione Liguria? Questa partita 3 Stato, regioni, FS, Trenitalia, di queste cose si è parlato mille volte. È chiaro che è politicamente un po' scomodo aumentare le tariffe, mi rendo conto. L'aumento delle tariffe deve stare in un percorso in cui ci siano dei servizi migliori, cioè il confronto che fate voi, o che fanno i giornali, su quello che si paga negli altri paesi dovrebbe essere anche fatto su quello che danno gli altri paesi, i loro pendolari. Cioè, questo è un paese che non ha treni, non so se mi spiego, insomma. Abbiamo una parte del materiale rotabile significativa che ha 30, 40, 50 anni. Adesso qui il governo sta parlando di, non so, 10, 20, 30, 40 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture. Ma vogliamo che uno o due di questi miliardi siano spesi anziché per costruire nuovi binari, per costruire nuovi treni? Mi sembrerebbe una cosa abbastanza ragionevole. Quanto poi a Ponti, che saluto, che ricordo nei tavoli romani sul piano generale dei trasporti, beh, ma la gente va in macchina non perché sia masochista, va in macchina perché non ha un'alternativa credibile alla macchina, costa di più, è pericoloso, penso alla nebbia, al maltempo, eccetera. Cioè adesso questa dell'alta velocità, a parte i nodi che però arriveranno pure essi, no? Anche i nodi si è fatto un investimento che darà risultati, è un'occasione straordinaria per usare più binari liberi per organizzare il trasporto pubblico in questo paese. Trovo un po' paradossale che chi dà l'esempio consumando meno, inquinando meno, sia considerato una minoranza di cui magari non si deve occupare. Il problema è che qui in Liguria, ripeto anche per la sua orografia, se noi fossimo capaci di fare di più il treno esploderebbe, sarebbe un vantaggio collettivo straordinario. No, se ci mettessimo lì a costruire treni e magari qualche infrastruttura di meno, perché poi è inutile fare infrastruttura senza i treni. Comunque lei dice con questi un migliore servizio potremmo anche fare un patto tra cittadini e aumentare le tariffe per avere il miglior servizio e pagarlo di più ma averlo migliore. Solo, ma finché non ci sono questi servizi le tariffe, lei dice, rimangono queste. No, fare un adeguamento, ma è evidente che ci vuole pure un rapporto, cioè se si volesse fare un'analisi comparata bisognerebbe capire, diciamo, che cosa paghiamo in funzione di ciò che riceviamo. Sì, certo. Allora, ingegner Soprano, vuole rispondere all'ascoltatore che da pendolare ci dice Trenitalia, le ferrovie non hanno un occhio di riguardo ai pendolari, non c'è una struttura regionale che guarda al lavoratore, allo studente, all'individuo che localmente si sposta tutti i giorni, ha una vocazione nazionale. Ecco, no, su questo, al di là, ripeto, di dover ammettere le difficoltà e i disservizi, di questo dobbiamo prenderne atto, in particolare direi per quello che riguarda la pulizia, che è un tema critico su cui stiamo mettendo mano con delle gare vere di tipo europeo, speriamo di avere a brevissimo i risultati attesi, ma c'è un tema, no, invece la parte organizzativa è assolutamente per il trasporto regionale segmentata e suddivisa. C'è un'area tutta dedicata per il trasporto regionale, con addirittura delle responsabilità suddivise per territorio, sostanzialmente per regione. Quindi qui dobbiamo evidentemente, l'osservazione del nostro ascoltatore mi fa capire che abbiamo da lavorare anche noi per rendere sempre più vicino alle persone questo tipo di strutture e di organizzazione. Ma da un punto di vista di disegno organizzativo è assolutamente già così. L'osservazione invece del professor Ponti è che, insomma, essendo monopolista, i prezzi, dice, sono concorrenziali. Lei dice, ha detto Ponti anticipando la risposta, sì. Lei dice di sì, voglio dire. Sì, ovviamente il però, mi ha questa situazione di monopolio è una situazione che secondo lei, insomma, evidentemente, ecco, si riverbera sulle tariffe. No, ma qui c'è la prova del budino, come dicono gli amici, bisogna mangiarlo, cioè bisogna fare le gare. Facendo le gare si mettono questi prezzi diciamo in gara, e abbiamo avuto degli esempi negli ultimi anni però sui vecchi livelli tariffari, che tariffari e dico rispettivi, che diciamo non sono andate da un punto di vista di numero di offerte, di platea di offerenti, diciamo assolutamente deludenti, quindi forse questo è un indizio. Però il tema della concorrenza ha perfettamente ragione, è la vera medicina. Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io domanda molto semplice e profana. Felicemente in pensione da 3 anni, ho fatto da Roma verso la provincia, trovato grossissime difficoltà nei treni pendolari, per cui molto spesso ho dovuto prendere la macchina, quella privata. Questo qua. La domanda più semplice è questa: cosa costa aumentare i vagoni per ogni treno? Cioè non più treni ma più vagoni. È la cosa più semplice, credo, per risolvere un pochettino i problemi. Vediamo, allora c'è l'amministratore delegato di Trenitalia, ma professor Ponti vuole rispondere prima lei, da professore, sarebbe una soluzione? Più vagoni e meno non tanto più treni ma più vagoni. Le soluzioni ce ne sono infinite, dipende da chi paga. Non mi è chiarissimo perché per questi pendolari devono pagare sempre i contribuenti. Questo qualcuno me lo dovrebbe spiegare. E per gli altri pendolari, che invece sono loro che con le loro tasse sulla benzina pagano anche quei treni. Ma lei dice i pendolari se lo paghino questo servizio, però no, il servizio... No, solo che ci sia una ragionevolezza tra i pendolari che devono andare in macchina, mica per scelta, perché stanno in tanta malora e vanno a lavorare in tanta malora, che pagano un sacco di soldi allo Stato. Però il presidente... I pendolari che ricevono soldi dallo Stato, forse una ragionevolezza è possibile. Il presidente Burlando però fa un discorso, va bene, si potrebbe anche pensare di aumentare le tariffe, ma fin tanto che il servizio è questo, uno non può pagare di più per ottenere un servizio di questo tipo. Un servizio migliore, pago magari anche di più, Ponti. Le italiane sono veramente lontanissime da quelle d'Europa, il che insomma sì, può darsi, ma c'è una ragionevolezza in tutte le cose. Io capisco, il servizio è peggiore, si paga il 20% di meno, ma per esempio i pendolari ferroviari negli Stati Uniti pagano circa 5 volte tanto quelli italiani, che per carità è troppo, pagheranno troppo negli Stati Uniti, ma i numeri sono di quest'ordine qua, quindi qualche ragionevolezza nei numeri mi sembra da osservare. La gran parte dei costi dei pendolari italiani sono pagati dalla mano pubblica, cioè anche coi soldi dei pendolari che vanno in macchina. Questo non mi sembra del tutto ragionevole. Può essere, tutto è possibile politicamente, ma mi sembra difficile da giustificare. Lei crede che l'alta velocità, qualcosa ci ha detto l'ingegner Soprano, il problema dei nodi, voglio dire, le entrate e le uscite delle stazioni, ci sono quei binari lì, e quindi che l'alta velocità, come ha scritto lunedì Sole 24 Ore, comporti un rallentamento addirittura delle tratte regionali, delle tratte dei pendolari di qualche minuto? In teoria sì, in pratica le ferrovie dicono che, in teoria sì, perché i problemi sono nei nodi. Far perdere molto tempo ai treni veloci in ingresso dei nodi sarebbe un controsenso, quindi in teoria ci potrebbe essere una penalizzazione sulla capacità per i treni pendolari, però le ferrovie, se lo dicono loro bisogna che credergli, le ferrovie dicono che non succederà, cioè che interverranno in modo che i pendolari non, certo, non perdano tempo. Qui è la riprova, non è che nei fatti, ma in teoria il problema di un sovraccarico nei nodi a motivo dell'ingresso potrebbe esserci, però bisogna aspettare. Noi siamo ai minuti conclusivi, voglio dare prima un ascoltatore e poi tornare da Soprano e Burlando. Giuseppe da Milano, buongiorno. Giuseppe. Sì, buongiorno. Dica. Sì, buongiorno, mi sentite? Dunque, niente, io intanto chiamo da Milano, ho studiato e lavorato a Milano da giovane prendendo sempre i treni da pendolare, anche 4 volte al giorno. E questo, abitavo nel nord Milano e pigliavo le nord. Adesso abito da 20 anni a sud sulla direttrice Milano-Bologna, ho la stazione del passante ferroviario sotto casa da 16 anni almeno ed è inutilizzata. E poi leggo che spendiamo 32 milioni di euro a chilometro per l'alta velocità. Quindi vorrei che in questo paese si ritornasse a fare i conti. Guarda, sui costi dirige regioni e ferrovie. Certo, sui costi dell'alta velocità, che in Italia 32 milioni e in Spagna, Francia 9-10 milioni a chilometro. Bisognerebbe, e non è neanche escluso che lo faremo, dedicare una puntata insomma prossimamente, però lei insomma grazie per averci segnalato questo disservizio. Non so se ingegnere Soprano vuole al corrente di questa situazione che ci diceva l'ascoltatore. Sì, il tema del passante è che purtroppo è stato un lavoro complicato e lungo. Quando si lavora nei nodi, quindi magari le stazioni sono lì, ma ci manca l'allaccio, il pezzo, cioè, quando si lavora nei nodi, questo chiedo scusa, non l'ho detto, anche se riguarda chi si occupa di infrastrutture, è che si va nel tessuto urbano, ci sono delle difficoltà enormi, quindi laddove, e purtroppo non sempre è così, e poi il tema che diceva lei dell'alta velocità, o la strada libera si riesce a procedere anche diciamo abbastanza sì. rapidamente, all'interno di un nodo le complicazioni sono sempre maggiori e gli imprevisti altissimi. Senta, i vagoni in più... è previsto in apertura, quindi è previsto in apertura. Finalmente il nostro ascoltatore... Quando è previsto in apertura? Diamo una speranza a questa squadra. Guardi, la prima parte è stata già avviata. Adesso non so esattamente la parte a cui lui si riferiva, ma siamo nel 2009. Nel si 2009, parte. Sì, i vagoni parte. In più come soluzione? L'ascoltatore ci diceva non più treni, più vagoni. È correttissima la cosa. È una soluzione che si può applicare. Ci sono ovviamente dei limiti, quanto non possiamo fare treni, ci sono delle difficoltà anche poi diciamo di circolazione troppo lunghi. Si possono aggiungere assolutamente carrozze nelle ore di punta. Il tema è purtroppo quello che diceva il professor Ponti, cioè il costo di queste di sì certo costa. Senta, ingegnere Soprano, allora voglio dire, non vi voglio fare l'accordo qui, però con Burlando, però lei ha detto risolveremo a ore, c'è una lettera in arrivo, Burlando ne ha preso atto, la leggerà. Insomma, lei è ottimista che il primo dicembre in Liguria non succederanno le multe, oppure c'è questo rischio? Mi faccio una previsione, insomma, tanto lo saprà come andrà. Sono assolutamente ottimista, se non fossi ottimista non potrei fare questo quindi lavoro. Quindi i pendolari liguri secondo lei viaggeranno gratis a dicembre e non succederà nulla? Troveremo sicuramente l'accordo con la regione, questo è un impegno personale. Vabbè, Burlando, a questo punto... La commissione ha portato diciamo un buon risultato, glielo dicevo all'inizio, no? No. Ma mi lasci dire solo sì, questo, sì. Risposta al professor Ponti, che ha sviluppato tesi che io considero molto singolari. Ma gli stati restituiscono la fiscalità in servizi in campi che si sono decisi, cioè non si paga mica l'ospedale, non si paga mica la scuola, e il trasporto pubblico locale è uno di quei settori che a livello italiano e a livello europeo è considerato un settore in cui è possibile che lo Stato metta dei soldi. Questa disciplina è arrivata a un decreto che io approvai nel 97, che trovava nel 97, il 422, e stabilisce che la compartecipazione degli utenti al trasporto pubblico locale su gomma o su rotaia ci deve essere, sì. Deve essere obbligatoriamente almeno il 35%, in molti casi assai di più, ma è consentito che come scelta di politica pubblica lo Stato, conformemente alle direttive europee, possa aiutare questo tipo di trasporto, perché dà un aiuto ai cittadini che pagano le tasse, fa risparmiare vite umane in incidenti, fa risparmiare costi del carburante, è utile al bilancio dei pagamenti di questo paese, sì. E quindi va. Ma su questo è un'altra tesi effettivamente interessante che magari svilupperemo appunto in questa in un'altra puntata, cioè l'idea se sia giusto, come dice il professor Ponti, che si paghi soprattutto con le tasse i pendolari dei treni, e chi prende la macchina e ha un tasso di mortalità più alto, un tasso di incidenti più alto, una benzina paga di più, paga le tariffe, insomma deve pagare con le proprie tasse anche chi si sposta in treno. Vi ringrazio, mi devo fermare qui. Grazie a tutti, in redazione Alessandro Marcotulli e Elisabetta Fusconi, oggi in regia Carmelo Lauricella, l'ho detto bene in conclusione, e allora ci risentiamo domattina. Viva voce!